Fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa, e ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto, schizzi nell'acqua, è solo un gioco. Quella mia giacca fa freddo in moto, salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e mentre i taxi vanno via, detto che eri solo mia, mi chiedevo se vanno via tutti, resti con me. Fatto per due, come le selle delle moto, come le stelle se le guardi sola, non è uguale senza di me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e mentre i taxi vanno via, detto che eri solo mia, mi chiedevo se